Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. I temi di oggi, sicuramente c'è Alitalia. In parte le notizie che stanno arrivando in questi minuti ve le ha riferite anche il giornale radio. La giornata si è aperta con le notizie in arrivo da Air France, che presentando i conti trimestrali ha annunciato che, vista l'incertezza della situazione per quanto riguarda la ex compagnia di bandiera, ha deciso di svalutare totalmente il valore delle azioni detenute. Come a dire, per noi la partecipazione che abbiamo in Alitalia vale zero, e non ha chiarito nemmeno, meglio ha posto delle condizioni per quanto riguarda la partecipazione all'aumento di capitale. Le cose che stanno uscendo in questi minuti sono le dichiarazioni di Roberto Colaninno, che avete sentito anche dal giornale radio. Dice: dopo aver sostenuto la ricapitalizzazione di Alitalia, non sarò disponibile ad assumere nuovamente incarichi nel vertice della società. E poi uno dei consiglieri della compagnia che dice: si sta valutando un piano stand alone, ossia con Alitalia da sola, senza nessun partner. Questo è l'argomento che andremo ad approfondire dopo le 18 e ci soffermeremo proprio su questo tema qua. Insomma, se proprio Air France, come ha avuto a dire ieri l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, deve essere il partner di Alitalia, oppure se per Alitalia sarebbero migliori altre soluzioni. Probabilmente un piano stand alone è molto difficile da realizzare, viste anche le condizioni finanziarie, e, insomma, vista la difficoltà di trovare gente che entri nel capitale, ammesso che non sia a questo punto lo Stato, naturalmente. Quale può essere il partner vero, il partner buono per Alitalia? Cioè, per una volta, insomma, le notizie ve le do io e ragioniamo invece da un punto di vista industriale con un docente che si occupa proprio di economia dei trasporti. Poi, vi avevo promesso ieri, alle 18 ci è arrivato qualche sms quando abbiamo ospitato il presidente di Fipe, Lino Stoppani, dicendo: siete vergognosi, date solo spazio alla parte datoriale. No, oggi in apertura daremo spazio alla parte sindacale, o meglio a due parti sindacali, quella della Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha deciso di dare una disdetta al contratto, come ieri vi abbiamo raccontato, provocando la protesta dei lavoratori del settore che oggi hanno scioperato, così come hanno scioperato i bancari per un evento analogo, l'ABI, che anche in questo caso ha disdetto il contratto. Parleremo con entrambi i sindacati, quello principale, quello più rappresentativo dei bancari, e poi quello della CGIL per quanto riguarda la Fipe, per quanto riguarda i pubblici esercizi. Ci occuperemo di Stati Uniti, perché oggi è arrivato un messaggio dall'America, un messaggio diretto alla Germania, nel quale si dice che, insomma, i paesi in surplus di Eurolandia, come la Germania, surplus dal punto di vista dell'export, rappresentano un problema per l'economia. C'era stato qualche segnale in questa direzione anche da Bruxelles. Anche Bruxelles aveva tirato una bacchettata alla Germania, aveva detto: attenzione ragazzi, che con queste esportazioni, con questa forza delle vostre esportazioni, state massacrando i paesi periferici. E a questo punto se ne occupa anche il Tesoro americano. Infine faremo una puntata all'estero, in Libia, perché c'è un tema che riguarda un paese ancora in grandissima confusione, sostanzialmente non governato, il che genera una serie di problemi. Al di là di quelli interni ci sono quelli esterni. Innanzitutto quello che vi abbiamo raccontato anche nelle settimane scorse, non in focus economia, che è quello della ripresa delle rotte migratorie dalla Libia, perché non hanno controllo dei confini sostanzialmente. E poi c'è il problema che più interessa questa trasmissione, che è il problema della produzione di petrolio, della ripresa della produzione di petrolio e in generale di materie prime dalla Libia, che naturalmente, come sapete, per noi è molto importante. Tutto questo oggi, ovviamente i mercati, è naturale che ne parliamo. La giornata è positiva, FTSE MIB più 0,67%, FTSE All Share più 0,72%. Per quanto riguarda le piazze finanziarie europee, le altre piazze finanziarie europee, siamo più o meno in linea, più 0,43%, Parigi, Francoforte appena sopra la parità, più 0,08%. E invece Londra negativa, meno 0,8%. L'America, all'indomani poi della riunione della Fed, che ha deciso di non tagliare subito gli stimoli all'economia, Nikkei è in Giappone, ha chiuso stamattina e ha perso l'1,20%. Vi dicevo, lo Standard & Poor's 500 è in perfetto pareggio adesso, il Dow Jones è in calo ma lievissimo dello 0,02%, il Nasdaq guadagna lo 0,07%. Come sempre adesso le notizie in breve. Iniziamo dalle materie prime e poi ci torneremo, come si diceva, parlando di Libia. L'oro giù dell'1,8% a $1,325 l'oncia. Il petrolio giù dello 0,6% il WTI, $96,19 al barile. E il Brent in calo dell'1,09 a $109,8. Naturalmente ieri c'è stata la decisione della Fed, come si diceva, di lasciare invariato il piano di acquisto di asset da 85 miliardi, 40 miliardi di dollari di titoli legati ai mutui e 45 di dollari in titoli di Stato. La Fed non ha fornito indicazioni esplicite sull'avvio della riduzione del piano di acquisti. Invariato il costo del denaro, del resto tra lo 0 e 0,25%, e l'indicazione che i tassi resteranno, aperte virgolette, eccezionalmente bassi fino a che la disoccupazione non scenderà al 6,5%. Oggi, a proposito di banche centrali, le principali banche centrali del mondo, alcune delle principali, BCE, Banca del Canada, Bank of England, Banca del Giappone, Fed, Banca Centrale Elvetica, hanno deciso di rendere permanenti le linee di swap messe in piedi durante la crisi finanziaria, in modo da avere una rete di protezione contro le future turbolenze. E qua, vi devo riferire, nel giorno nel quale abbiamo un'inflazione europea dell'area euro, dato di oggi, che scende ancora e cresce appena dello 0,7% in ottobre, dopo l'1,1 di settembre. Dove pesano prezzi di alimentari, alcol e tabacco, in Italia è più, allo stesso livello, 0,7%. Jens Weidmann, presidente della Bundesbank, secondo quanto riferisce Bloomberg, dice: la politica monetaria in Europa e negli Stati Uniti è eccessivamente espansiva. Più a lungo i tassi restano bassi, più aumentano i rischi, dice. Qua non si capisce, insomma, se per i tedeschi storicamente e come da statuto della BCE l'obiettivo è l'inflazione al 2%, Va bene, magari vedremo di tornarci, Come si diceva, il Tesoro americano dice che gli Stati Uniti ritengono che la crescita della Germania spinta dalle esportazioni crei problemi per l'area euro e l'economia globale. La Germania respinge le critiche del Tesoro americano. Una critica incomprensibile, dice il ministro delle Finanze di Berlino. L'Italia, inflazione, di nuovo in calo d'ottobre, 0,7% al minimo dal 2009, su mese meno 0,3% nonostante il rialzo dell'aliquota IVA. Quindi a settembre prezzi in calo, su settembre, perdono, prezzi in calo meno 0,3%. Stesso livello per il cosiddetto carrello della spesa, i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, più 0,7% al minimo da 4 anni. Segnale molto forte alla benzina, meno 5,5% su base annua. Sempre l'Istat ha diffuso i dati sulla disoccupazione. Nuovo picco in settembre, 12,5%. Dato provvisorio, è il valore più alto dall'inizio sia delle serie mensili gennaio 2004 sia delle trimestrali primo trimestre 77. Il numero di disoccupati in settembre sfiora 3,2 milioni, più 29.000 su agosto, più 391.000 su base annua. Dice il ministro Enrico Giovannini, la crisi continua a mordere. Se ne accorgono soprattutto i giovani che la crisi continua a mordere, perché la disoccupazione giovanile, cioè tra i 15 e i 24 anni, registra un record al 40,4%. Eppure qualche micro segnale, perché poi se no ci dite che diamo solo brutte notizie, qualche micro segnale si registra, sono i dati Nielsen. L'indice di fiducia in Italia si attesta a 47 punti, più 6 rispetto al trimestre precedente. È l'indice che misura la fiducia dei consumatori e le intenzioni di spesa ed è in linea con lo stesso trimestre dell'anno scorso, quando era 46 punti. All'Italia poi ci arriveremo naturalmente. Chiude il terzo trimestre con un risultato netto di 7 milioni in calo dall'utile di 27 dello stesso periodo del 2012. Il risultato operativo nel trimestre è stato di 36 milioni dai 50 del terzo trimestre 2012. Nei 9 mesi è di meno negativo per 162 milioni dai 119, era negativo anche là del 2012. Air France, vi abbiamo detto, ha azzerato il valore delle azioni in bilancio e pone condizioni molto strette e chiare fin dall'inizio per partecipare all'aumento di capitale di Alitalia. Lupi, il ministro Maurizio Lupi delle infrastrutture, dice se Air France dovesse decidere di non sottoscrivere l'aumento di capitali in Alitalia, è evidente che un partner internazionale forte va trovato. E si unisce nel frattempo al grido arrivato da British Airways rivolto all'Europa sul fatto che con questi soldi messi da Poste Italiane ci sarebbero aiuti di Stato, ci si mette anche Lufthansa. Ci sono modi legali per aiutare le compagnie aeree in difficoltà, dice, ma ci sono limiti riguardo ai ripetuti aiuti di Stato che distorcono il livello del campo di azione. Abbiamo sempre chiesto all'Europa di attenersi alla loro politica. Prima di andare a parlare di questioni sindacali, dato che tante volte ci siamo occupati della vicenda dei Ligresti, fatecela raccontare questa che riguarda il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, compare nell'inchiesta di Torino sul caso Fonsai. Che cosa è successo? È successo che il ministro Cancellieri ha ricevuto una telefonata da Antonino Ligresti, fratello di Salvatore, di Totò, preoccupato per la salute della nipote Giulia Ligresti, in carcere, che aveva sofferto di anoressia e che in cella rifiutava il cibo. E il ministro si è interessata. Ho sensibilizzato il DAP, dice, perché venisse fatto quanto di loro competenza per la tutela della salute dei carcerati. L'amicizia della ministra con la famiglia Ligresti è nota, così come è noto il fatto che il figlio Pier Giorgio Peluso è stato dirigente della fondiaria SAI. Da ricordare che è stato Peluso interrogato nei mesi scorsi dai magistrati torinesi e non è indagato. Dalla telefonata si sente Cancellieri che dice: qualsiasi cosa io possa fare conta su di me, non so cosa possa fare, però guarda, sono veramente dispiaciuta. Passiamo a parlare di questioni sindacali e questioni di contratti, va. Non vi ho ricordato il numero per intervenire in diretta, ma ormai lo sapete, via SMS il 349-238-6666. Se volete vi leggo anche su Twitter, mi trovate là, Simone Spezia, si scrive Spetia. Allora, parliamo di due vicende parallele per molti aspetti e di due scioperi che si svolgono contemporaneamente, che si sono svolti oggi. Il primo è quello dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, mense aziendali, scolastiche. Sciopero nazionale dei lavoratori dei pubblici esercizi oggi e della ristorazione. Si tratta di 680.000 addetti. Che cosa è successo? È che FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, ha ufficializzato la disdetta unilaterale dal contratto nazionale. Lo aveva già fatto l'ANGEM, l'Associazione delle Imprese della Ristorazione Collettiva. Già l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, aveva cancellato unilateralmente il contratto con i bancari il 16 di settembre. Allora, saluto innanzitutto Cristian Sesena, segretario nazionale Filcams CGL per il turismo. Salve, benvenuto, buonasera. Buonasera a voi. Eccolo qua. E anche Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, che è il principale sindacato dei bancari. Salve, benvenuto. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Eccoci qua. Allora, prima di parlare con Sesena innanzitutto, vi faccio riascoltare quello che ci ha detto ieri il presidente della FIPE, Lino Stoppani, sui motivi che hanno portato alla disdetta del contratto nazionale del settore. Ci avete detto ieri, fate ascoltare solo la parte datoriale, siete dei mostri. No, non siamo dei mostri, tant'è vero abbiamo due sindacalisti in linea. Sentiamo Stoppani però. Il motivo grave di questa decisione sofferta, forte, meditata e al quale abbiamo fatto appello anche ai veri valori sindacali che richiedono anche responsabilità, sta nel fatto che c'è una grave situazione in settore rappresentata dai numeri, aziende che chiudono, fatturati che calano, ultima riga del conto economico orientata verso il rosso, che impone interventi inderogabili su alcuni istituti contrattuali che generano retribuzioni in assenza di ore di lavoro e con l'obiettivo evidentemente di ridare efficienza e produttività al sistema delle imprese che sta soffrendo una situazione di grandissima difficoltà dal punto di vista economico. Allora, quando parliamo di ridare efficienza e produttività, è chiaro che bisogna poi declinare questo concetto. E declinare questo concetto per noi è stato quello di proporre al sindacato una rivisitazione di alcuni istituti contrattuali, tipo gli straordinari, tipo il ROL, tipo l'indennità di malattia, tipo gli scatti di anzianità, tipo la 14ª, ma noi Abbiamo detto anche al sindacato che se questi argomenti o questi istituti non vi vanno bene, proponeteci voi alcuni altri istituti. Quindi, con la quale si possa recuperare efficienza. Così dunque Stoppani. Allora, Cristian Sesena, segretario nazionale FILCAMS CGL per il turismo, che cosa risponde ai datori, all'associazione datoriale? Ma innanzitutto il presidente Stoppani parla di responsabilità e alla richiesta di responsabilità la FIT ha risposto con un atto di forte irresponsabilità, che è quello di disdettare un contratto nazionale alla vigilia, perché poi i tempi sono stretti, di Expo 2015, mettendo quindi a rischio la buona riuscita, la buona tenuta di un evento a cui tutto il mondo del turismo e l'economia guarda come un possibile volano di rilancio per la situazione del paese. Sulle richieste di Stoppani non si parla di rivisitazione, FIPE vuole l'abolizione, sono due parole diverse, l'abolizione di istituti. Guardi, io ieri ce l'ho avuto in onda, gliel'ho chiesto esplicitamente e lui mi ha detto no, noi stiamo parlando di una rivisitazione, di un ripensamento di questi istituti per legarli un po' di più alla produttività. E sinceramente, le dico proprio, sì, non mi è sembrato nella situazione nella quale siamo, nelle difficoltà economiche, come diceva lui, con le aziende che chiudono, non mi sembrava una cosa folle, in tutta sincerità. Guardi, dovremmo fare i tavoli di trattativa in streaming, visto che fanno stava tanto di moda. Comunque, fra rivisitazione e abolizione c'è una bella differenza. Le proposte del sindacato sono state chiare, nel senso che noi abbiamo condiviso con Stoppani e con tutte le altre parti datoriali che compongono un contratto del turismo composito, che è in vita dal 74, un percorso. A marzo la FIPE ha rovesciato il tavolo, tanto che le altre controparti, albergatori, tutti di marca Confcommercio, albergatori, agenzie di viaggio che stanno soffrendo una crisi veramente pesante, sono rimasti al tavolo sul canovaccio che ci eravamo dati, cioè un contratto che fosse responsabile, ossia figlio dei tempi, ma che avesse una funzione precipua, quella di dare un messaggio forte anche alla politica, che le parti sociali in difficoltà riescono a dare il meglio, diciamo, a tutela delle imprese, dei lavoratori, e si rivolgono alla politica perché per il settore si faccia quello che la politica per anni non ha fatto, cioè investire, cioè credere nel turismo come volano dell'economia. Quindi io mi sento di dire che sono in totale disaccordo con la visione edulcorata che dà Stoppani rispetto a richieste davvero inaccettabili. Sileoni, veniamo a lei. Oggi primo sciopero dopo 13 anni dei bancari, l'ACE. Sì. Come dice, una situazione parallela, perché anche in questo caso l'ABI ha dato la disdetta del contratto. Ci sono... Questa è una cosa che io in questo paese non riesco a capire veramente, scusate. Io non riesco a capire come ci si possa scontrare sui numeri. Intendo che voi dite che i costi del personale, se non sbaglio, voi avete dei dati secondo i quali i costi del personale sono inferiori alla media europea. L'ABI dice invece che da dati di bilancio aziendale i costi del personale, le spese per il personale sono molto più alte. Ma sa perché? Perché nei bilanci, nei costi del personale, loro inseriscono i costi degli altri dirigenti e dei banchieri. Questo è il punto. E l'altro punto, io seguo spesso la vostra trasmissione, l'altro punto che anche voi spesso rimarcate, cioè i 140 miliardi di sofferenza del settore, ce le vogliono scaricare a noi all'interno dei piani industriali, come dire, licenziando gente, tagliando posti di lavoro e abbattendo ulteriormente il costo del personale. Le do un dato incredibile, che è passato inosservato per tanto tempo. Da gennaio del 2000 a giugno del 2013 il settore bancario ha perso 48.000 posti di lavoro. Da maggio del 2013 al 2020 ne perderà altri 19.800. È sufficiente fare la somma per capire che dal 2000 al 2020 il settore ha perso 70.000 posti di lavoro. Dovrebbero dimettersi. Questo è il punto. Questo è quello che dice lei, Sileoni. Io ho una domanda per lei, che se vuole anche la domanda banale di un utente, però intanto io gliela faccio, poi abbiamo una pausa e poi la riprendo. Ed è questo. Nel momento nel quale, e guardi che spesso questo è un discorso che si fa anche per il settore pubblico, nel momento nel quale progressivamente il sistema bancario passa verso il digitale, no? E lo sportellista classico inizia a non servire più, non è anche normale che questo avvenga, che ci sia una riduzione di personale di questo tipo? Ne parliamo, ma dopo la pausa. Ma non sono antisindacale, lo dico a chi scrive, non sono antisindacale, non c'è da augurare che venga disdetto il contratto ai giornalisti, poi se verrà disdetto il contratto ai giornalisti ne parleremo, per carità di Dio. Mi pongo delle domande, le pongo ai miei interlocutori. C'è ancora Sesena in linea, al quale farò un'altra domanda. Sileone, gliene ho fatta una che a me sembra normale anche da semplice utente, e a questo punto lo prego di rispondere. Cioè, quello che dicevo, aumentano i conti online, diminuisce forse la necessità di personale in banca, ci sono addirittura banche che sono solamente online, non è normale una riduzione del personale di queste dimensioni, Sileoni? Ma guardi che il problema della banca online non è ancora di attualità. Noi abbiamo preventivamente, anche nell'ultimo incontro fatto a settembre quando le banche ci hanno disdettato il contratto, abbiamo preventivamente chiesto un tavolo per affrontare preventivamente l'argomento della banca online, perché noi vogliamo che divenga una opportunità, non un modo per tagliare i posti di lavoro. Cioè, il ruolo sociale le banche lo devono svolgere, non possono far quadrare i conti, come dire, sempre con i prepensionamenti incentivati o con un abbattimento dei costi, perché non si va da nessuna parte. Noi più volte, guardi, abbiamo chiesto anche un nuovo modello di banca, una banca che stia sul territorio, che faccia una vera assistenza e consulenza alla clientela, ma non abbiamo mai ricevuto risposte. Noi siamo stati costretti allo sciopero, noi vorremmo riaprire immediatamente una trattativa, ma non possiamo aprire una trattativa con una pistola alla tempia è rappresentata dalla disdetta del contratto. Le banche vogliono rinnovare un contratto alle loro condizioni o in alternativa vogliono dare l'opportunità alle aziende, ai grandi gruppi bancari di farsi i loro contratti aziendali in deroga al contratto nazionale, peggiorando le condizioni normative ed economiche dei 309.000 addetti del settore, e questo noi non lo possiamo permettere. Le banche hanno anche, mi sembra di capire, hanno bisogno di, e questa poi è anche la domanda che farò a Sesena, hanno bisogno anche di un incremento di produttività. Che cosa proponete voi? Cioè, quali sono le vostre idee da questo punto di vista? Ma noi più volte, guardi, abbiamo dato un'ampia come dire, disponibilità. Noi guardi, mi dica due o tre punti. Sì, meglio di uno. Velocemente. Noi vogliamo molto veloce. Noi vogliamo bene le banche, perché il benessere delle banche equivale al benessere dei lavoratori bancari ed equivale anche ad una maggiore qualità del credito ad imprese e famiglie. Detto questo, più volte ABI parla di nuove figure professionali, di nuovi mestieri. Gli abbiamo detto: mettiamoci intorno al tavolo, discutiamo di questi nuovi mestieri. Non abbiamo mai ricevuto risposta, perché le banche, i banchieri e la classe dirigente vuole esclusivamente tagliare il costo del lavoro e manca il confronto. E non avete proposte per l'incremento di produttività? Guardi, noi abbiamo dei premi aziendali, le faccio un esempio, che sono ancorati ai risultati che l'azienda, come dire, raggiunge tempo per tempo. Quindi noi sulla produttività, sull'acquisizione della clientela, sulla consulenza alla clientela, noi abbiamo fatto 1000 proposte. Abbiamo detto: sostituiamoci ai commercialisti, abbiamo detto: siamo pronti anche a vendere nuovi prodotti finanziari a condizione. No, per carità, per carità, Sileoni, per carità. No, dico nel senso che di quelli forse ne abbiamo abbastanza, insomma. Sente. Opachi, come nel passato. Sì, l'importante è che poi chi vende questi prodotti, diciamocelo, sia ben formato, c'è anche questo elemento. Però, insomma, comunque. Un altro dato. Brevissimo, scusi, per favore. Sì, allora, 140 miliardi di sofferenza bancaria, no? E quelle che pesano. Allora, se sbaglia un lavoratore viene licenziato. Quelli che hanno, come dire, assicurato affidamenti senza garanzie, stanno tutti lì, nei posti di comando, nei vari consigli di gestione, di sorveglianza e di amministrazione, le sembra giusto? Sì, non, magari non solo, allora in parte è vero, non solo, anche a livello magari appunto di direzioni locali eccetera eccetera, però insomma comunque quello è anche un effetto della crisi necessariamente. Sesena, invece, le vostre proposte, cioè che cosa avete portato sul tavolo con FIPE e con le altre associazioni datoriali per dire ok, noi possiamo, disposti a ragionare sul tema della produttività, e però in questi termini? Intanto dovremmo capirci se c'è un problema di produttività per FIPE, in quanto invito qualunque persona ad andare a vedere a che ritmi si lavora ad esempio a McDonald's e con che salari, per fare un esempio. Il problema di FIPE è un altro, è ovviamente un problema di crisi. Un problema di crisi ad esempio sulla rete autostradale, perché se la gente non va più in ferie, il turismo autoctono nostro è in crisi. Quindi lei dice non è vero, cioè quello che dice Stoppani, che c'è un problema di produttività, non è vero, questo dice lei. Non è il problema principale la produttività. Noi abbiamo un contratto... Però loro di questo parlano, Sì, loro di questo parlano, perché adesso va di moda sostenere che che noi siamo indietro con la produttività. Sarei veramente contento di numeri alla mano, dati, capire come FIPE misura la sua produttività e poi ci venga a convincere del fatto che c'è un problema di produttività, perché il problema è un altro. E con estrema onestà FIPE ha accennato che sanno benissimo che i problemi derivano dal costo del lavoro, dal cuneo fiscale, da una burocrazia terribile che ammazza anche le piccole imprese, soprattutto in una fase di crisi dei consumi, ma visto che non hanno fiducia o non hanno speranza di poter ottenere a livello governativo una spinta, si muovono verso l'unica pezzo di scosto che possono tagliare, che è quello del costo del lavoro. Su questa partita noi non ci siamo, abbiamo fatto delle proposte, cioè praticamente le tre organizzazioni sindacali hanno messo in un cantuccio le loro piattaforme rivendicative e si sono concentrate su alcuni punti, disposte a ragionare, tra cui la flessibilità dell'orario di lavoro, tra cui una, chiamiamola impropriamente, moderazione salariale, tra cui anche la volontà di intervenire, di calmierare il costo del lavoro con interventi temporanei mirati soprattutto al 2014, che pare essere dagli analisti ancora un anno di crisi, un anno orribile per il settore. A questo FIPE non basta, questo FIPE non è sufficiente, questo non è sufficiente a tal punto da voler chiedere ai lavoratori di autofinanziarsi un contratto di lavoro. Brevemente, brevemente Sesena, ho capito che cosa dice, brevemente, sciopererete ancora? Noi andremo avanti, noi abbiamo un problema di spada di Damocle sulla testa, FIPE dice che dobbiamo togliere delle pregiudiziali, loro ne hanno posta una che pesa come un macigno, una disdetta di un contratto nazionale. Ci mobiliteremo in forme anche diverse da quelle istituzionali di uno sciopero generale nazionale come oggi, che è andato benissimo, ma attiveremo anche tutte le sedi legali con la speranza che FIPE receda da questa posizione politica. Ah, quindi andrete in giudizio su questo? Anche, sicuramente stiamo valutando la valenza della loro disdetta, del loro recesso da un contratto nazionale che non ha precedenti. Brevemente, Sileoni, altre iniziative di questo tipo come quella di oggi, sciopero e manifestazioni, in programma? Guardi, noi andremo avanti finché l'Associazione delle Banche Italiane non ci toglie di mezzo la disdetta del contratto, perché non trattiamo con un sottorigardo. Prossimo sciopero quando? Per il momento ancora non adesso aspettiamo che l'ABI faccia la sua mossa. Presente che l'adesione è stata altissima. Noi oggi abbiamo quanto? Il 90% degli sportelli bancari chiusi oggi. 90? 93% di sportelli bancari chiusi e 90% di adesione. È stato lo sciopero, con i risultati migliori dal 1954 ad oggi. Grazie Sileoni, grazie Sesena per essere stati con noi. Viabilità e poi la borsa. Focus Economia. Caro ascoltatore, ma che vuol dire basta interrompere il sindacato? Guardi, interrompiamo anche i ministri qua. Quando non danno le risposte alle domande che gli facciamo, li interrompiamo e gli rifacciamo la domanda. È il nostro mestiere, abbia pazienza. Basta, non mi scaldo più. Passiamo ai mercati. Ceo Condina, Radio Core, il Sole 24 Ore. Ciao, come stai? Bene. bene, buonasera a tutti. Bene, ciao. Buonasera. Allora, tutto bene, anzi un'accelerazione nel finale mi è sembrato di vedere. FTSE MIB più 0,96, quasi un punto percentuale di guadagno, FTSE All Share un punto percentuale di guadagno, lievemente meglio che nel resto d'Europa, tra l'altro. Che è successo? Insomma, diciamo che veniamo da alcune sedute un po' incerte, anche settimana scorsa era andata abbastanza maluccio, Milano in tutto aveva perso più del 2%, invece oggi, dopo una seduta nervosa, nel finale comunque Milano ha messo a segno, come detto tu, un buon guadagno, più 0,96%, Wall Street ha leggermente diciamo invertito rotta, questo ha favorito diciamo il fatto di rimediare una seduta che le principali borse europee avevano sicuramente vissuto nel nervosismo e nella volatilità. Allora, so che abbiamo in linea uno, probabilmente più ascoltatori che hanno in portafoglio azioni Monte dei Paschi, perché mi hanno scritto l'altro giorno, diamogli una bella notizia, va? Allora, diciamo che oggi sono filtrate le prime indiscrezioni sul documento diciamo messo a punto dalla Fondazione del Monte dei Paschi, che come sappiamo è il primo azionista della banca col 33,5%, un documento di programmazione strategica al 2017 in cui sono anche previste insomma le azioni da effettuare sulla quota nella banca. Fino ad oggi erano circolate le ipotesi che la Fondazione mettesse direttamente sul mercato tutto il 33,5% del capitale. Ricordiamo che la Fondazione ha un debito di 350 milioni da onorare, ma diciamo da quello che emerge da questo documento viene esclusa questa ipotesi e si privilegerebbe la fusione con un altro istituto. È chiaro che riversare sul mercato una quota così consistente di un'azione deprimerebbe il titolo insomma in modo significativo. Il fatto che questa ipotesi si allontani ha favorito il titolo, che è subito balzato con un più 6,6%. Dia Sorin più 2,47%, Pirelli più 2,06%, Unicredit più 1,84%, Enel Green Power più 1,82%, Generali più 1,65%. E Generali c'è un report di JP Morgan che sostanzialmente rappresenta un po' il coronamento a quello che è stato il lavoro che ha fatto il nuovo amministratore delegato Mario Greco, che come sappiamo è succeduto a Giovanni Perissinotto. Definisce quella di Generali la storia di recupero più attraente del settore assicurativo e ovviamente diciamo che dà questa raccomandazione di sovrappesare il titolo con un target price a 20 euro, il target price è un po' il prezzo che il titolo potrebbe raggiungere nel giro di 12 mesi, oggi Generali a 17. Secondo JP Morgan ci sono varie linee d'azione su cui la compagnia può agire per migliorare la propria performance in borsa. Eni più 1,63%, Fiat rimbalzino dopo la caduta di ieri più 1,58%, Buzzi Unicem un punto e mezzo percentuale, Intesa San Paolo più 1,38%, World Duty Free più 1,37%, Exor più 1,35%, Enel più 1,31%, Terna più 1,22%, Mediolanum più 1,18%, Luxottica più 1,16%, qua ancora la scia dei conti? Positivi, no. Oggi poi anche dell'intervista all'amministratore delegato Andrea Guerra che ha insomma ribadito la solidità, l'importanza di questi conti ottenuti comunque in un momento che non è facile per nessuno, e anche insomma l'ipotesi di ulteriori espansioni all'estero per una delle principali aziende insomma del Made in Italy ancora. Autogrill più 1,15, Parmat più 1,14, Fondiaria Sai più 1,12, Saipem più 1,11, Azimut un punto percentuale di guadagno, Salvatore Ferragamo più 0,96, ST Microelectronics e Popolare Emilia Romagna più 0,8, più 0,6, Snam, Mediobanca, Mediaset, Tots mezzo punto percentuale di guadagno, Campari altrettanto, più 0,41 il Banco Popolare, Telecom Italia più 0,35, la Popolare di Milano debole oggi, meno 0,20. Oggi volatile, perdeva anche di più durante la mattinata, c'è un po' questo balletto sulla nomina del consigliere delegato, se n'è andato Piero Montani come sappiamo alla Carige, sembrava dovesse arrivare Giuseppe Castagna, poi Castagna anche giustamente ha posto dei paletti perché diciamo che fare il consigliere delegato oggi dal BPM non è esattamente il mestiere più facile del mondo e quindi per il momento il consigliere delegato lo farà Davide Croft, insomma un balletto un po' che ha innervosito il mercato. Allora, Finmeccanica giù per un report di Deutsche Bank, meno 3,05%, e CNH, meno 3,28%, qua sono i conti, brevemente CEO. I conti brevemente, calo dell'utile netto, meno 15% rispetto all'anno scorso, giù il fatturato, sostanzialmente anche qui un po' si paga la crisi, dopo i dati Fiat di ieri, ancora la galassia Agnelli, i conti non vanno benissimo, c'è da dire che diversamente da Fiat, CNH ha confermato i target. Grazie, grazie a Ceo Condina di Radio Cori, il Sole 24 Ore. Ciao, buona serata. E ora parliamo di America. Più che di America, in realtà parliamo di rapporti tra America e Europa o tra America e Germania. No, non stiamo parlando di quello che va sotto il nome ormai di Datagate, ma parliamo di esportazioni, e per la precisione delle esportazioni della Germania. Cosa è successo? Che il Wall Street Journal raccontato del rapporto semestrale sulle valute del tesoro americano, nel quale si dice che i paesi in surplus di Eurolandia devono rafforzare la domanda interna, e gli Stati Uniti ritengono che la crescita della Germania, spinta dalle esportazioni, crei problemi per l'area euro e l'economia globale. Da ricordare che Bruxelles aveva lanciato un richiamo simile ai tedeschi nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, dicendo tutto questo è pericoloso per i paesi periferici. Mario Platero, il Sole 24 Ore da New York. Ciao Mario, benvenuto. Eccoci Simone. Eccoci qua. Allora, iniziamo un po', raccontaci un po' di questo rapporto e soprattutto come lo leggi tu. Ti chiedo di essere breve perché di tempo non abbiamo moltissimo. Come lo leggi tu, nel senso che loro dicono che mina la stabilità e l'economia mondiale, ma magari dietro c'è un retropensiero? Beh, sì, dunque questo rapporto è un rapporto periodico che viene emesso dal Tesoro americano, molto seguito, ed era stato, diciamo, usato dal Dipartimento del Tesoro, dall'amministrazione, per mandare dei messaggi molto duri, soprattutto alla Cina che aveva agganciato lo yuan al dollaro. Lo yuan era, secondo gli americani, troppo debole, non rifletteva la forza reale dell'economia cinese e dunque finiva per esercitare una concorrenza sleale dal punto di vista delle esportazioni negli Stati Uniti. E quindi ormai ci eravamo abituati a questa lista della spesa, in cui si facevano delle analisi sui rapporti fra le valute, se gli equilibri funzionano o non funzionano, con un un punto di riferimento costante, al di là che poi questo trovasse un raffronto nella realtà, e cioè che gli Stati Uniti sono per la politica del dollaro forte, vogliono il dollaro forte. Dollaro che rispetto alle medie storiche, soprattutto nei confronti dell'euro, ricordiamolo, partì a un tasso di cambio di 1,16-1,17, ma addirittura Mario, ascolta una cosa, Mario, ti fermo un attimo, perché noi adesso abbiamo una pausa per il giornale radio. Io però voglio tornare a parlare con te subito dopo la pausa, perché questa è una cosa che non capisco, nel senso, teoricamente un euro forte invece agli americani, soprattutto in questa fase, dovrebbe fargli bene, dovrebbe aiutarli nelle esportazioni. Proprio di questo voglio parlare con te, ma dopo la pausa. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, bentornati a Focus Economia, la seconda parte. Tra poco parleremo di Alitalia e parleremo anche di Libia. E però chiudiamo il discorso con Mario Platero da New York per il Sole 24 Ore. Allora Mario, stiamo parlando di questo rapporto semestrale del Tesoro americano, nel quale c'è una sorta di bacchettata alla Germania. Si dice appunto che la crescita della Germania, spinta dalle esportazioni, crea problemi per l'area euro e l'economia globale. È un po', come già dicevamo, il tema che aveva sollevato la stessa Bruxelles. Parlando però dei paesi cosiddetti periferici, ci siamo anche noi dentro, dicendo questo export così forte che avete danneggia i paesi periferici. Tu ci dicevi che però gli Stati Uniti scrivono che è per questo, una minaccia per l'economia globale, ma in realtà intendono altro, e ci spiegavi qua c'è dietro una politica di dollaro forte che tradizionalmente gli Stati Uniti vogliono perseguire. E la mia domanda era: ma perché mai dovrebbero volerla perseguire? In realtà un dollaro forte in questo momento potrebbe essere dannoso per quantomeno per le esportazioni americane, o no? Sì. O mi sbaglio? Allora, sì, allora Simone, ti inquadro il problema, cerco di essere, so che non avete tempo, cerco di essere privato. Allora, da una parte abbiamo la questione valutaria, cioè il dollaro è debole, ma in questo momento è sostenuto da un punto di vista dei tassi di interesse dalle politiche di intervento della Federal Reserve, che mantengono i tassi di interesse, dunque la domanda per carta americana è molto alta, indipendentemente dal flusso che viene in questo paese e quindi dal flusso di stranieri che devono comprare dollari per poi comprare i titoli americani, vengono comprati direttamente da qua. E allora nel momento in cui da qui ai prossimi mesi, perché inevitabilmente la manovra di accomodamento della Fed andrà a finire, se l'euro continua a restare molto forte, per l'America si crea un problema, e cioè che per poter attirare investimenti sui loro titoli dall'estero dovranno inevitabilmente aumentare i rendimenti dei titoli del tesoro a lunga, e quindi questo crea dei problemi non voluti di un aumento dei tassi a lunga per l'economia. Questa però, diciamo, è una interpretazione, perché dal punto di vista più diretto quello che hanno detto gli Stati Uniti in questo loro rapporto, ti dico, ma ha colpito perché un attacco frontale alla Germania, sappiamo i problemi che ci sono stati col Datagate, quindi l'America passa al contrattacco, questa volta sul fronte macroeconomico, e la spiegazione, diciamo, di facciata che gli Stati Uniti danno è che, di fatto, lo semplifico, la Germania pensa a se stessa, non pensa né al resto dell'Europa né al resto del mondo. La Germania esporta, non fa delle politiche di stimolo della domanda interna, questo è un messaggio che gli Stati Uniti davano soltanto, soprattutto alla Cina, che aveva lo stesso problema, uno yuan, in quel caso c'era uno yuan molto debole, però era tutto basato sull'esportazione, non sul rilancio della domanda interna. Invece bisogna che ognuno faccia il suo ruolo, abbia la sua responsabilità. La Germania deve in sostanza stimolare l'economia, deve promuovere la domanda interna e crescere con la domanda interna, che a quel punto finirà per attirare importazioni anche dagli Stati Uniti, cioè c'è un problema di crescita, questo lo sappiamo, gli Stati Uniti lo ripetono sempre, finora lo hanno menzionato in un contesto europeo, l'Europa deve crescere, l'America non può crescere da sola, non può fare da traino, non ce la fa. A questo punto direi quasi in sintonia con quello che forse può essere il pensiero del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, almeno così immaginiamo, sicuramente del Presidente del Consiglio Letta e di molti degli altri governanti europei, si dice: cara Germania, tu stai frenando la crescita degli altri paesi europei, pensi un po' solo a te stessa, vedi di cambiare questa tua politica. Ecco, questa dichiarazione così diretta, che isola la Germania e schiera gli Stati Uniti a fianco dei paesi europei, ovviamente ha creato costernazione e sorpresa in Germania, e c'è già stata tra l'altro una reazione della Germania, sì, del ministro delle finanze, hanno detto: ma ci sembra assurdo, non capiamo cosa dicono gli americani, e quindi diciamo un nuovo elemento di tensione, questa volta non fra Stati Uniti e Europa, ma fra Stati Uniti proprio e Germania, e chissà quanto di tutto questo, in quanto di tutto di questo giocano anche la vicenda e le tensioni sul Datagate. Mario, io ti ringrazio e grazie per la partecipazione alla trasmissione, buona giornata, ci risentiamo naturalmente domani con effetto dentro, effetto giorno. Noi adesso ci passiamo a parlare di Alitalia, e su gentile richiesta ogni tanto facciamo anche i DJ. A chi me l'ha chiesto su Twitter lo facciamo con questa base. Vabbè, e visto che siamo in tema con questa musica e ci chiedete se è chiusa la borsa domani, no, la borsa domani è aperta, quello che è chiuso l'after hours, cioè le contrattazioni subito dopo. Le questioni di Alitalia, eccole. Il Il gruppo Air France KLM ha deciso di svalutare totalmente il valore delle azioni detenute in bilancio, considerata l'incertezza della situazione, che è come dire per noi Alitalia vale zero, quantomeno la nostra partecipazione in Alitalia. Poi c'è la questione della partecipazione all'aumento di capitale di Alitalia. Air France ha posto, da quel che si è appreso, da quel che ha detto l'amministratore delegato Alexandre de Juniac, condizioni molto strette e chiare fin dall'inizio. Se non saranno accettate, non avrà un approccio positivo alla partecipazione all'aumento di capitale. Ma che modo barocco di dirlo, però, eh? Dice il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi: che se Air France dovesse decidere di non sottoscrivere l'aumento di capitale in Alitalia, è evidente che un partner internazionale forte va trovato. E certo, esattamente di quello che vogliamo parlare tra un attimo. Lufthansa. Anche Lufthansa si unisce a British Airways, dice: ci sono modi legali per aiutare le compagnie aeree in difficoltà, ma ci sono limiti riguardo ai ripetuti aiuti di Stato. Distorcono il livello del campo di azione, abbiamo sempre chiesto all'Europa di attenersi alla loro politica. Prima salutiamo il nostro ospite, che pare che ce l'abbiamo in linea, il professor Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Salve, bentornato professor Ponti. Buonasera a voi. Eccoci qua. La viabilità e poi parliamo con lei. No, Renato, da Milano, non metto Thriller di Michael Jackson. Allora, professor Ponti, parliamo di cose serie, parliamo di Alitalia, dunque. Io voglio partire da quello che ho letto ieri. Sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, che dice: per Alitalia si deve arrivare ad un accordo con un partner industriale che deve essere Air France. Ora, io le voglio chiedere se, secondo lei, da un punto di vista industriale, Air France è veramente il partner ideale di Alitalia? Perché stiamo parlando solo di loro, magari invece c'è qualcosa di più interessante per un'azienda come la nostra ex compagnia di bandiera. Lei metterebbe soldi nella nostra compagnia di bandiera? Personalmente no, però magari è fallita, è piena di debiti, ma chi la vuole? Ma chi se la compra? Cioè, basta un ragionamento relativamente elementare. Air France è il partner industrialmente più corretto, ma è pieno di guai a casa sua. E l'Alitalia è quello che sappiamo, che dicono i numeri, poi non è una questione di opinioni. Quindi è ovvio, è una normale politica industriale che Air France cerchi di comprare nelle migliori condizioni possibili. Non sarebbe reciproco l'atteggiamento di Alitalia qualora le parti fossero invertite? Beh, mi sembra che sia fuori discussione. Air France ha delle serie difficoltà. Alitalia, io per esempio, se fossi Air France, non investirei un euro se non sono io che faccio il piano industriale, visto che devo integrare nella mia rete una compagnia in gravissime difficoltà. E quindi mi sembra che l'atteggiamento di Air France è più che comprensibile, diciamo che è industrialmente razionale. Probabilmente anche un'operazione tattica niente male, insomma, nel senso che stanno tenendo sulla corda, no? Ripeto la domanda iniziale: chi investirebbe oggi in Alitalia? Dove sono i pretendenti a queste nozze? Per fare le nozze bisogna essere in due e ci hanno provato con una serie di compagnie, le quali hanno detto, hanno visto i numeri, hanno detto no grazie, quindi non è che sta tirando la corda, sta cercando di porre condizioni in cui un pezzo di Alitalia possa stare in piedi, perché il problema è quello lì, un pezzo di Alitalia, ma sicuramente non tutta, possa stare in piedi integrata in Air France. Quale pezzo non sta in piedi secondo lei, professore? Questo bisognerebbe essere dentro nella contabilità del France e vedere linea per linea dove perde di più, dove perde di meno, e poi non basta nemmeno quello, perché bisogna vedere poi l'integrazione con la nuova compagnia, diciamo Air France, dove anche linee che non sono quelle più in perdita ma potrebbero utilmente integrarsi nella rete di Air France. Quindi la risposta tecnicamente è un po' complicata, è tipica da piano industriale, cioè che deve fare Air France in qualche modo, almeno deve partecipare sostanzialmente alla stesura di un nuovo piano industriale, se no trovo ragionevolissimo che non ci metta i soldi alla cieca, ma santo cielo, come non lo so, mi sembra una pretesa fortemente irragionevole quella, che poi siano i nostri capitani coraggiosi, patriottici, ma chiederlo ai France, Air France che sia patriottica nei nostri confronti, mi sembra ardito, a lei cosa sembra? Sì. Sento una cosa, come andrà a finire secondo lei, da come legge la situazione, professore? Gli economisti sono specialisti nel fare previsioni sul passato, sul futuro un po' meno. Io dico che se Air France la piglia per un euro dobbiamo baciarci i gomiti, ma forse sono un po' troppo cattivo. Comunque mi sembra comunque sì la strada più ragionevole, perché collabora già da molti anni, hanno già servizi in code sharing, abbastanza, una flotta abbastanza integrata ed integrabile, quindi l'ipotesi di altre compagnie mi sembra peggio, cioè compagnie extra EU potrebbero tra l'altro entrare solo stando sotto il 50%, quindi uno senza nemmeno il bastone di comando difficilmente entra in una compagnia così, se non può nemmeno fare il piano industriale. Quindi mi sembra che comunque è la soluzione più ragionevole, e direi, come si diceva, quanto volete darmi, quello è il prezzo, lo fa il compratore. È un prezzo fatto dal price taker, in questo caso dal compratore, è evidente, le condizioni non consentono un prezzo fatto dal venditore. Chi ha un po' di buona memoria sulla vicenda, è la stessa vicenda che ci fu con KLM, quando dovette integrarsi all'Italia con una compagnia straniera, che era KLM, ed era un eccellente matrimonio, perché due mercati totalmente diversi, l'Italia, per ragioni patriottiche, chiese delle condizioni che KLM non accettò, e invece accettò quelle di Air France pochi mesi dopo. È un atteggiamento di un patriottismo suicida, meglio che suicida, che ce lo fa pagare, che è fatto poi pagare ai contribuenti, e c'è il rischio che anche questa volta i contribuenti paghino un altro po'. Grazie professor Ponti per essere stato con noi, per averci aggiornato. Anche è un piacere, anche mi piace dire cose. No, ma si figuri. Cosa bisogna dire? Non ho più parole, come si dice ai funerali. Grazie professore, okay. Buonasera, noi adesso parliamo di Libia. Un paese nel caos, lo sappiamo. Ci sono effetti che all'opinione pubblica sono, se vogliamo, un po' più evidenti, no? Un po' più palesi. Lo abbiamo visto con questa ripresa massiccia degli sbarchi con annessi drammi. Perché? Perché il paese non è controllato e quindi da là può partire chi vuole. E ci sono effetti che forse tendiamo a vedere di meno, e sono gli effetti economici, in particolare del petrolio. Petrolio, ostaggio del caos libico, inviato a Tripoli del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Ciao Alberto, buonasera. Buonasera a tutti voi. Sei tornato giusto oggi. Allora, che situazione hai trovato? Ma dunque, la situazione nella capitale è ancora accettabile, nel senso che rispetto soltanto a due o tre mesi fa, dove io ero stato girando il paese per una settimana, 10 giorni, perché mi trovavo lì per fare un documentario per l'Istituto Luce sull'Islam politico, la situazione mi sembra persino un po' migliorata, nonostante tutto. Quello che però non è migliorata è la situazione fuori da Tripoli, fuori dalla capitale, in quelle aree da est e a ovest dove ci sono i campi petroliferi oppure quelli del gas. Ebbene, in quelle zone insiste ancora molto forte un'anarchia quasi del tutto incontrollabile. A est, in Cirenaica, quello che poteva accadere lo avevamo previsto già forse 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, quando è cominciata la rivolta contro Gheddafi. La Cirenaica e la Libia, non dimentichiamocelo, sono un'entità che era stata messa in piedi dalla colonizzazione italiana, e la Cirenaica, Bengasi e Tripoli tra l'altro distano 1200 chilometri, la Cirenaica ha sempre rivendicato in qualche modo una sua autonomia e custodisce il 70% e passa delle riserve petrolifere. Quindi in Cirenaica miliziani ben armati si permettono da settimane, di bloccare le esportazioni del petrolio, e già i conti per i libici sono seri. Allora, Alberto, molto, molto brevemente, allora, produzione al momento 90.000 barili di petrolio al giorno contro 1,6 milioni dell'era Gheddafi, no? Sì, e il 50% della produzione di gas in meno, il che provoca non solo problemi alle esportazioni, ma anche problemi interni, perché col gas sono alimentate anche le centrali elettriche. Il peso sulle forniture italiane era al 23%. Il peso sulle forniture italiane, la Libia contava per il 23% delle importazioni petrolifere globali dell'Italia e per il 15-20% di quelli di gas. E adesso naturalmente la quota è ampiamente ridotta. È ampiamente ridotta, e come sapete, naturalmente, se un paese perde, un altro guadagna. Per esempio l'Arabia Saudita ha aumentato le sue quote di produzione petrolifera perché lì ci si rivolge per acquistare il petrolio che manca sul mercato. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Tripoli. Chiudiamo qua rapidamente, e chiedo scusa per il ritardo. Paolo Corleoni in regia, Mauro De Corno, Barbara Bianchi in redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A domani.